Radio 24 Reportage. La febbre del lunedì sera di Marta Cagnola. È lunedì sera, siamo in piena campagna ai bordi di una piccola cittadina del nord nella bassa Lombarda. Siamo a Bagnolo Cremasco. Qui c'è una discoteca che attrae centinaia, migliaia di appassionati di musica. Ma parliamo di musica da ballo, il ballo liscio, la musica della balera, insomma, come la volete chiamare. Abbiamo detto che è lunedì, ma il Magica è affollatissimo. A portarci alla scoperta di questo universo è una grande, grandissima star della musica da ballo. Fuori ci sono le sue fan. Posso rubarvi solo un minuto di tempo? Volevo sapere come mai questa scelta, questa passione, visto che poi comunque siete tutte giovani. C'è Omar, che a noi piace tanto. Veniamo a trovarlo. Ah, siete delle fan di Omar? Sì. E cosa ha Omar di speciale? Tutto. A noi piace. Lo seguiamo già da diversi anni. E quando è nelle zone, nelle nostre vicinanze, veniamo a vederlo. E sì, perché Omar Codazzi è una celebrità da 500.000 album venduti, 14 anni di carriera, 5 dei quali con la sua band, 300 date all'anno in tutta Italia, 38 anni e una figlia di 6, Aurora, una compagna, Adele, che si occupa di tutti gli aspetti organizzativi dell'orchestra, che ormai è un'azienda di successo. Allora con Omar conosciamo il suo mondo, il mondo della febbre del lunedì sera. Sempre, tutti i lunedì veniamo noi. Perché siamo innamorati dalla musica, specialmente del liscio. Balliamo, sì sì, e come no? Balliamo, certo. Adesso siamo appena arrivati, allora siamo un po' calmini. Poi cominciamo. E poi vi scatenate, eh? Siamo a posto. C'è un po' di allegria. A me è sempre piaciuto, anche se comunque ho iniziato anch'io da giovanissima. E comunque è una bella musica, nel senso, perché varia, nel senso varia un po'... da latinoamericano, anni 60, piuttosto che invece c'è sempre pieno, cioè sto vedendo che c'è sempre gente. Da carrozziere a appassionato di karaoke a grandissima star della musica da ballo, qual è il segreto di Omar? Ma io sinceramente sono cresciuto da una famiglia povera, una famiglia dove mia mamma era una donna di servizio, mio papà era uno spazzino. E automaticamente, sai, sei cresciuto magari con determinate mentalità e valori soprattutto, e automaticamente sembra quasi che la gente lo capisca, questo qua lo vede, che comunque non sei nato con la camicia, non sei nato imparato, come sbagliando quel detto lì, non sei mai stato nessuno, e se adesso magari hai qualche possibilità di goderti qualche momento di calore, qualche momento di affetto, non mi sono mai montato la testa. Sono sempre rimasto il carrozziere di una volta, e la persona di sempre. Forse vedono questo, c'è un contatto. Cioè, tu vai a vedere un concerto, magari fai 100 km, e il cantante finisce di cantare e sparisce. Invece noi dobbiamo conquistarcela la gente, capito? Di andare giù, dargli il bacino, l'abbraccio, magari c'è la nonnina che vuole fare la fotografia, subito, c'è la ragazzina che vuole fare la foto, ci mancherebbe altro. È questo, c'è un contatto. Ecco, nel nostro mestiere c'è un contatto, dal palco alla pista. Ma voi le sapete tutte a memoria le canzoni di Omar? Quasi sì, mi piace la musica. Ho preso i CD e li sento sempre a casa, e la televisione, così. Anche lei, signora, è un'appassionata, perché conosce tutte le parole delle canzoni, come mai? Tutte. C'ho a casa il CD. E ascolta Omar. Ci appassiona. Seconda delle regioni hai un pubblico diverso. Sì, esatto, c'è il Veneto che è in prima, cioè diciamo è in prima pagina. Ci sono tantissimi giovani che ballano liscio, anche perché comunque hanno delle strutture meravigliose, anche quando fanno le feste di piazza sono dei capannoni bellissimi, scaldati, dentro all'interno si mangia, c'è un'area a parte dove si mangia, quindi anche d'inverno fanno queste feste qua. E ti sembra che sia sempre estate, no? E il Piemonte anche lì ci sono parecchi giovani, l'Emilia un po' e un po', la Romagna diciamo che ci sono tanti, tanti, come si può dire, nonnini, eccoci, e poi ci sono comunque anche lì, però la maggior parte della gioventù la si vede quando si va in Veneto. In Veneto è tantissimo, anche perché comunque non è più il fatto di dire tutta sera valzi, mazzucca, polka, tango e fox, valzi, mazzucca, polka. Ormai è una musica a 360 gradi, si fa di tutto. E se per esempio la canzone nuova di Sanremo, si esegue la canzone nuova di Sanremo, e quella dell'anno scorso si fa anche quella, roba di canzone di Massimo Ranieri, quello lì è il compito mio, perché comunque sono più portato a fare quel genere lì. Poi ognuno dei ragazzi ha il suo genere, chi fa la Mazzotti, chi fa Baglioni, chi fa Biagio Antonacci, quindi c'è tutto un misto di musiche dove riusciamo a contentare completamente dai bambini ai nonnini. Poi mi sono piaciute le nonnine con il grembiule con la tua faccia. Sì, ma poi ci sono anche quelli che si sono fatti gli orecchini con dentro le fotografie piccoline. No, è bellissimo. Io li amo. Poi portano la tortina, portano le uova fresche. Le uova letti fatti in casa magari al pomeriggio, te li fanno e la sera te li portano, sughi, salame, cioè di tutto. Un po' di tutto, portachiavi, CD, non so, fotografie, portafoglio, guarda che c'è, magliette, d'estate si vedono che le magliette. Tutto lì. Fausto l'impresario, ma come si riempie un calendario con 26 date al mese? È incredibile. C'è solo da mettersi in macchina e fare dei gran chilometri. Io poi sono, diciamo, tra virgolette facilitato, perché sono 35 anni che faccio questo mestiere e conosco un po' tutti i locali, diciamo i grossi locali d'Italia, dell'Alta Italia, ecco, con punte fino a Latina, Frosinone, Caserta e anche più in giù, ecco. Una passione, quella per il liscio, che però negli anni non è diminuita, secondo lei? No, assolutamente no. Si è chiaramente il genere, per fortuna, si evolve sempre, e prima era proprio il liscio classico, cioè i valzer, i tanghi, le mazurche. Adesso invece nei locali, oltre a queste cose, si balla anche gli anni 70, 80, il genere, diciamo, che funziona adesso, ecco, anche per i giovani, ecco. Carlo Visioli, il padrone di casa, ma mi spieghi, questa cos'è? La febbre del lunedì sera? No, basta, è un po' di anni che funziona il lunedì sera. Era la serata dei parrucchieri una volta, negozianti, qui chiudono il lunedì pomeriggio e lunedì sera vengono a ballare. Poi con gli anni abbiamo fatto le altre due sale, ho preso anche il latino e la discoteca, adesso va abbastanza bene. Io però voglio conoscere anche qualcuno dell'orchestra. Alessandro Viacava, chitarrista. Paolo, suono il sax, sono 5 anni che sono con Omar. Musica da ballo da quanto? 26 anni. Oh, sono Emanuele Guerci, faccio l'autista. Quanti chilometri all'anno? 100.000. Bruno Cominato, suono il basso e sono 5 anni che sono con Omar. Ciao, sono Christian, suono la batteria, anch'io 5 anni con Omar. Ciao, sono Jonathan Mangherini, vengo dalla Romagna, suono il sax e sono 2 anni e qualche mese che sono con Omar. Sono Elio Serturini, suono le tastiere e sono da 4 anni con Omar. Sono Lino Scoccini, suono la tromba e sono la quarta stagione che faccio con lui. Lui è Mauro Romagnoli, praticamente sarebbe come la mia cantante, cioè nel senso... Wow, sono un po' rasato, senza capelli però. È la versione, è la mia spalla in tutto, eccoci. Diciamo che il sacrificio che facciamo nella vita così quotidiana ti gratifica di tutto la sera, la fine serata. È pesante perché comunque non è tanto il discorso di lavorare, io lavoro anche nel senso che comunque come gli altri ragazzi dobbiamo scaricare un pullman, montare tutto il palco, decidere, fare. Non abbiamo service, fare. Siamo noi il service. E impari tante cose, oltre che tante culture anche, diciamo, queste cose qui, i dialetti stessi. Massimo Scaravaggi, lui è pisamonicista, quello che cura l'audio. 300 serate all'anno, non so quanti locali su 300 serate, sono tutti diversi uno dall'altro. Non ce n'è uno uguale, mai. Non c'è mai una sera uguale, deve sempre suonare uguale però il suono, e non è facile. E da quanti anni invece in questo mondo? 37. Ma noi siamo qua così per stare un po' in compagnia con le amiche, gli amici, però mette allegria, è un momento di aggregazione e si sta volentieri 2 ore fuori casa. Io ho visto ancora qui sedute, però poi ballate? Dipende. Noi stasera siamo di solito trasparenti stasera. Noi di solito facciamo i balli di gruppo. Comunque stasera siamo messe in una posizione che non va bene per gli inviti. Di solito ci mettiamo là e allora si balla. Qua no. È un posto un po' infelice questo, sì, devo dire. Sì. Osservate un po' da lontano. Allora qua sì, osserviamo. Osserviamo. Soffri mai la separazione di questo mondo di cui si parla poco da quello che va in televisione, dalla notorietà? Sì. La soffri un po'? Soffro. E delle volte guardi la televisione e dici, quello là è là e io sono qua. Ma non perché io sono più bravo di lui. Però lui non è più bravo di me. Ecco, cioè, capito? Si sa come nella vita. Io, ci sono tantissimi bravi cantanti molto più bravi di me e magari non riescono a fare quello che magari anche nel mio piccolo ho fatto. Però, insomma, io da carrozziere ho avuto la fortuna di fare questo. Ma è stata una fortuna, però. Avere anche giovani che hanno voglia di suonare questo genere è bello. Perlomeno hai il panino a fine mese, eccoci. Quelli che hanno l'ambizione, giustamente, di far rock, no? Perché io lì, se non piace, faccio rock. Alla fine è costretto a fare magari un altro lavoro. È venuta quella tal persona un giorno che mi ha portato via dalla carrozzeria e mi ha detto: c'è un'orchestra che sta cercando un cantante. Io sono andato e da lì è partito tutto. Scambieresti i tuoi 500.000 dischi venduti in carriera alla fine delle serate con un festival di Sanremo? Questa qui è una domanda cattiva, Delle volte dico: ma cavolo, se dovessi andare là, ma se io sono riuscito nel mio piccolo a conquistarmi migliaia di cuori di tantissime mamme, lì sarebbe uguale, no? Troppo difficile questa domanda. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.